Prologo. Il tema di oggi è: ho sognato la casa dove sono nato e mi sono svegliato nella casa dove sono nato. Oppure, Edgar Allan Poe era un grande scrittore, ma eccelleva anche nella corsa ad ostacoli. Quale importanza ha la cura del fisico per un buon mago Baol? Oppure, trasformate il foglio protocollo in un taglio di stoffa Oxford per camicia, 2 metri per 2, e fatene dono al vostro insegnante. Finita la dettatura, il maestro si rilassò sulla sedia. Gli allievi e le allieve del corso di magia Baol sospirarono e si concessero una pausa di riflessione prima di iniziare lo svolgimento. Alcuni rosicchiavano la penna, altri le unghie, altri dilapidarono all'istante tutto il patrimonio di merenda che avrebbe consentito loro un sereno intervallo. Solo il pennino del primo della classe cigolava implacabilmente. Era primavera. E il giardino del tempio era fiorito. Fiocchi di polline entravano dalla finestra facendo intonar starnuti ai più delicati. Gli uccellini cantavano stibonei, il sole scaldava il mondo. In un giorno come quello non era facile stare inchiodati a un banco di scuola, sia pure una scuola prestigiosa come il Tempio Baol. Perciò l'allievo Bed, mentre tutti iniziavano a scrivere, guardava fuori dalla finestra un ciliegio fiorito. Sarebbe bello essere su uno di quei rami, pensò, e dato che era già al terzo anno del corso, si ritrovò sul ramo, insieme al maestro. «Non mi risulta che lei abbia chiesto il permesso di uscire, allievo Bed», disse il maestro. «Chiedo scusa», arrossì Bed, tra i bianchi fiori, «ma è una così bella giornata». «Poco male», disse il maestro, eseguendo alcuni volteggi a pinocchietto intorno al ramo. «C'è tempo per il tema, ma da qualche giorno ti vedo distratto, allievo Bed. Cosa c'è? Sei preoccupato per il futuro delle foche? Sei innamorato dell'allieva O'Connor? Ti capisco, anch'io ne vado pazzo. Vuoi cambiare studi? Pensi che il mondo stia per finire congelato oppure fritto?» «Niente di tutto questo», rispose Bed. «Per la verità non riesco a togliermi dalla testa le sue parole di qualche giorno fa. Ricordate che nella vita di ogni Baol c'è un segreto e lo conoscerete solo quando sarete vecchi». «Sì, ho detto proprio così». «Questo segreto mi turba, maestro. Non può essermi rivelato prima che io sia vecchio?» «No, se vuoi però posso farti diventare vecchio subito». «Oh no, maestro!» «Allora corri a fare il tuo tema», disse il maestro, e salì verso i rami più alti a rimpinzarsi di ciliegie. Le ciliegie in aprile erano un tipico trucco Baol. Qualche anno dopo, il ragazzo Bed ottenne il diploma Baol con 36 trentesimi e lasciò la scuola, portando con sé molti ricordi e una foto della sua classe. Uscendo dal tempio, dove aveva tanto studiato ed erano passati tanti giovani anni della sua vita, si sentì vecchio. «Maestro», gridò nel vento, «è ora che io conosca il segreto?» «No, fila divertirti», rispose una voce lontana. Il ragazzo aspettò un momento con gli occhi chiusi, poi salì sull'autobus, che in pochi minuti lo portò in città, verso una nuova vita.